4334 di nuovo, a svegliare quel bagazzone tuo fratello, eh? Devo fare di nuovo quel numero? Sveglio quella bagazzone tua? La falla a tua madre, capito, coglione? Pertanto io dico tutta la frequenza di tuo numero, perché sei un rosso, un drogato, 24334. Hai capito, rosso? Invece il numero dell'amico tuo, eh? Adesso lo dico, 73, 24, 25, 73, telefonate. Lo vedi che io do il numero dell'amico tuo, quello schifoso, drogato, pregiudizio, 24, 25, 73, che ne sveglio con la bagassa mamma tua, eh? Quella grande bagassa mamma tua, cioè 24, 3, 3, 6, 4, 24, 3, 3, 6, 4, piombate di telefonate, che la madre è una grande bagassa, che non si guarda il figlio, quella madre è una grande bagassa! Adesso io do il tuo numero di frequenza, hai visto? Perché non me l'hanno detto che sei drogato, perciò 24, 3, 3, 6, 4, oppure il numero dell'amico tuo, che è più bello, 24, 25, 7, 3, 24, 3, 3, 6, 4, 24, 3, 3, 6, 4, ma vedi come me lo ricorda mia moglie, il tuo numero, brutto figlio di puttana drogato, è un fratello che è un coglione, vado, 40 e do il tuo numero, vaffanculo! Domani piombano di telefonata con la grande bagaccia mamma tua, sempre gli do il numero tuo, così crepi tu e quella bagaccia mamma tua. Pronto, che ne sveglio con la grande bagaccia mamma tua, eh? Perché non attacchi tempo? Brutto porco maiale, froscio! Froscio! Quella grande bagassa mamma tua, adesso gli dico sempre che è una bagassa come te. Coglioni! Parla con te, lo vedi che non parla nessuno con te, perché sei un coglione, un froscio, un drogato, lo vedi? Che sei un drogato, drogato, froscio! Vedi che non lo so che sei Danilo Snoopy, eh? Cosa credi che non lo so? C'è quella bagassa mamma tua. Non più facile, domani mattina ti telefono all'una, alle due, alle tre. Vedrai che tu non ricevi nessuna telefonata. Froscio! Froscio! Stai coglione a tua madre, eh? Froscio! Vedo che domani mattina tu già ci parli domani. Non truppa. Il tuo numero è 243364. Adesso lo dico pure alla questura. Stanotte ne sveglio con la bagassone tua madre. Oggi, domani vedrai come ti piombo di tefra. Già ti usciranno luce a te con la bagassa mamma tua. Senta quella grande bagassa mamma tua. Adesso lo dico più in frequenza. Quella grande bagassa mamma tua. Quella grande bagassa mamma tua. 24, 3, 3, 6, 4. 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,